Stato di Stefano Folli. Il semestre italiano alla presidenza dell'Unione rischia di essere di fatto già finito senza un'iniziativa immediata. L'improvviso aggravarsi della crisi in Ucraina e ora anche il nuovo scenario di guerra in Medio Oriente rendono evidente che gli europei non possono permettersi il lusso della paralisi in attesa di decidere le varie nomine della Commissione. Ciò che non fa che accentuare l'irrilevanza dell'Unione sulla scena internazionale. Sappiamo che Renzi è partito con il piede sbagliato, ma ora ha l'occasione di recuperare il terreno perduto se userà il suo mandato di presidente per sbloccare lo stallo. La cosa peggiore sarebbe contribuire alla paralisi per un puntiglio. Se fosse vero che la maggioranza dei partner sarebbe favorevole a vedere Enrico Letta in un ruolo di grande rilievo e che tutto si è fermato perché l'Italia rifiuta l'ipotesi a causa dei noti dissapori politici tra Renzi e l'interessato, l'errore potrebbe essere imperdonabile. In Europa bisogna essere molto più prudenti e capaci di mediazioni che a casa propria, altrimenti se ne pagano le conseguenze. Anzi, in questo caso, con tanti conflitti sanguinosi alle porte, le pagherebbero tutti.